Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Sta per entrare in vigore la nuova aliquota IVA ordinaria del 21%. Non tutti i beni, non tutti i servizi verranno colpiti dall'aumento. L'IVA infatti prevede anche un'aliquota ridotta al 10% che si applica a molti beni alimentari, alle ristrutturazioni edilizie e ad altro ancora. C'è poi un'aliquota ultra ridotta al 4% per i generi di prima necessità, pane, latte ed altro ancora. Una legge del 1972 dispone esplicitamente su quali beni e su quali servizi si applicano queste aliquote ridotte. Quello che non è compreso in questi elenchi ha un'applicazione appunto dell'aliquota ordinaria, che era del 20%, sta per diventare al 21%. Questa nuova aliquota colpisce gran parte anche delle cessioni delle prestazioni di servizi, in quanto viene applicata come criterio automatico se il bene o il servizio non è contemplato da una norma speciale che concede l'aliquota ridotta, si applica l'imposta ordinaria. Tutto questo preambolo, tutta questa premessa per ricordare anche quello che hanno fatto i giornali in questi giorni, delle grandi simulazioni per cercare di capire che aumenti ci saranno e come graveranno nelle tasche delle famiglie in relazione all'aumento appunto dell'imposta sul valore aggiunto. Un aumento di un punto percentuale che avrà conseguenze tutt'altro che trascurabili, perché va a colpire una lunga serie di beni, dal caffè agli elettrodomestici, influisce su molte prestazioni professionali, su molti servizi. L'argomento è molto ampio. Noi questa mattina ci concentreremo sulla prima di queste due voci di spesa. Lasciamo quindi momentaneamente da parte i servizi e gli incarichi dei professionisti e cerchiamo di capire meglio come l'aumento dell'imposta andrà a pesare sul nostro carrello della spesa o sugli acquisti di altri beni. E soprattutto ci chiederemo, ci sarà una spinta inflazionistica rispetto a questa novità? Ne parleremo con Stefano Crippa, responsabile delle relazioni esterne di Federdistribuzione, le più importanti insegne della grande distribuzione italiana. Bentornato Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Un saluto ai nostri due ospiti collegati telefonicamente, Mauro Bussoni, vice direttore di Confesercenti, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti voi. Reduce peraltro dalla presentazione del rapporto Confesercenti REF di questa mattina, che tra le altre cose che ha indicato in termini previsionali, credo che abbia rilasciato anche delle previsioni sull'impatto sulla spesa delle famiglie rispetto alla manovra sull'IVA. E infine Giuseppe Di Taranto, ordinario alla Facoltà di Economia dell'Università Luis Guido Carli di Roma, consulente dell'Unione Nazionale Consumatori. Professor Di Taranto, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Uno studioso di spese per consumi appunto delle famiglie italiane, quindi anche lui sarà in grado di dirci che impatto tra le abitudini dei consumatori e tra le tasche soprattutto dei consumatori avrà questa misura. Potete chiamarci per dirci la vostra sull'argomento all'800 24 00 24. Ci potete scrivere al 349 238 6666. La borsa che continua a non farci dormire sonni tranquilli, abbiamo una nuova giornata negativa. Dopo i fortissimi ribassi di ieri, oggi le piazze del vecchio continente sembravano essersi svegliate di buon umore, quantomeno dati i prezzi raggiunti ieri c'era una gran voglia almeno di un rimbalzo tecnico che è fallito nel giro di un'ora. Già dalle 10 le piazze hanno ingranato la marcia indietro e tornano tutte a scendere. Vedo Parigi che sta riprecipitando velocemente del 2,43% adesso. A distanza segue Francoforte, -0,90%, Londra -0,95% e anche Milano molto volatile, limita il calo all'1,10%. Sulla borsa francese sta pesando stamattina il forte calo di BNP Paribas, -7,92%, ma anche le altre banche perdono terreno. Société Générale di nuovo in calo di 3 punti, AXA -3,68%. BNP Paribas subisce il contraccolpo di queste voci che circolano sul mercato, secondo le quali, lo diceva il Wall Street Journal, fondi monetari americani si sarebbero rifiutati di prestare capitali alla banca. La circostanza è stata smentita seccamente dalla banca francese, ma in ogni caso il mercato preferisce abbandonare il titolo, che adesso appunto perde l'8%. Per il resto a Piazza Affari le banche tentano di mantenere questo rimbalzo avviato questa mattina, ma non riesce per tutte. La Popolare di Milano più 2,86, Unicredit più 2,26%, Banco Popolare più 1,67, Generali più 1,41, Ubibanca più 1,36%, le altre banche invece non sono più di tanto forti: Intesa più 0,12%, Monte dei Paschi meno 0,3, quindi va in negativo. I titoli peggiori sono però di nuovo gli industriali: STM meno 2,85, Eni meno 2,53, Fiat Industrial meno 2,52, Impregilo meno 2,43%. Un'occhiata solamente al mercato obbligazionario, perché stamattina c'è nuova tensione. La Cina si sarebbe detta pronta ad acquistare titoli di Stato italiani, almeno questo argomento sarebbe stato al centro di un incontro che si sarebbe svolto nei giorni scorsi con il Ministero delle Finanze e rappresentanti appunto della Cassa Depositi e Prestiti e una delegazione cinese. Questa rassicurazione però non basta al mercato, perché stamattina lo spread fra BTP e Bund è risalito a 400 punti base, i livelli di agosto, quando la Banca Centrale Europea ha cominciato a comprare titoli di Stato italiani, e c'è stata stamattina la nuova asta di BTP a 5 anni, è riuscita l'asta, tutto l'ammontare previsto, 4 miliardi, è stato pienamente collocato, ma il Tesoro ha dovuto riconoscere tassi in forte aumento al 5,6%. Direi che per adesso la borsa la possiamo lasciare pure da parte, andiamo al tema di questa mattina, parliamo dell'aumento dell'IVA al 21%, sentiamo un po' che impatto si aspettano le famiglie italiane. Cosa significa nella vita di tutti i giorni un punto in più dell'IVA? I consumatori inizieranno presto a sentirlo sulla propria pelle, mentre già da qualche giorno si susseguono opinioni e ipotesi sul peso che avrà la decisione, rientrata nell'ultima versione della finanziaria, di aumentare l'aliquota di un punto, portandola dal 20 al 21%. L'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, che ha avuto un ruolo decisivo nella manovra, è previsto per la sua versione ordinaria, che va a toccare una fetta molto ampia di beni, dalle automobili all'abbigliamento, dagli elettrodomestici ai gioielli, ma anche vini e spumanti, caffè e cioccolato. Costerà di più comprare un CD, come un taglio o un'acconciatura dal parrucchiere, e sono coinvolte anche molte prestazioni di servizi, come le cessioni di beni mobili e immobili, il rogito dal notaio, per intenderci, e molte altre prestazioni professionali. Non si toccano invece le aliquote ridotte, da 4 e 10%, che gravano su beni di prima necessità, come pane, pasta, frutta e verdura, ma non è infondato il timore che, seppur indirettamente, anche i prezzi di questi prodotti possano crescere, considerando ad esempio che l'aumento dell'IVA peserà sui trasporti. Quello che in apparenza può sembrare un solo innocuo punto percentuale potrebbe quindi influire non poco sul portafoglio di una famiglia media. 124 euro annui, secondo la CGA di Mestre, 130 per l'ADOC, 165 per Confesercenti. Cifre da non sottovalutare se si considera che, come fanno notare le associazioni dei consumatori, negli ultimi 10 anni il potere d'acquisto è sceso del 39,7%. Gli italiani, insomma, si preparano ad accusare il colpo. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi sull'argomento di questa mattina, che contrariamente a quello che pensavo, con i miei soliti pregiudizi, in realtà sta già scatenando molte osservazioni, non solo da parte di molti ascoltatori in qualità di consumatori, ma vedo anche molti per esempio commercianti. C'è un artigiano, Roberto da Bergamo, che ci scrive: sono un artigiano del vetro, vendo ciò che produco, ma non aumenterò, mi farò carico comunque, non so per quanto si resisterà con le tasse pesanti che si pagano. Ed effettivamente il tema è anche questo: fino a quanto, per esempio, la grande distribuzione, Stefano Crippa, inizio con lei, si potrà far carico di questo nuovo aumento. Intanto mi chiedo se la categoria ha fatto un conteggio su quello che potrebbe essere il riflesso sulle abitudini dei consumatori rispetto a questa manovra, se la grande distribuzione si trasferisse completamente quest'onere sul consumatore, quanto graverebbe sulle tasche delle famiglie che vanno a fare la spesa nei grandi centri commerciali? Buongiorno, allora va detto come prima cosa che è proprio in questi giorni che tutte le aziende della grande distribuzione stanno prendendo la loro decisione su come comportarsi nei confronti di questo aumento dell'IVA. Quindi non ci sarà un comportamento uniforme da parte di tutti, ma ciascuno farà la propria scelta. Qualcuno ha già comunicato, per esempio, che tenderà a non aumentare i propri prodotti, aziende non alimentare, Zara, si è espressa in questo senso e quindi cercherà di assorbire questo aumento. Altre aziende invece naturalmente porteranno tutto o parte, perché poi avremo modo di capire che ci sono anche problemi molto delicati dal punto di vista della gestione del prezzo finale. Per esempio, le soglie psicologiche dei prodotti: un televisore venduto a 999 euro, bisognerà pensare a come gestirlo dal punto di vista del prezzo. Quindi se riportare l'aumento dell'IVA sul prezzo finale di vendita, quindi rompere questa soglia psicologica, oppure se tenersi, come diciamo noi, in pancia l'aumento dell'1%. Va detto che, per rispondere alla sua domanda, se dovessimo fare un'applicazione matematica dell'aumento dell'IVA e quindi tutte le aziende della grande distribuzione riportassero l'aumento sui prezzi di vendita, solo per quello che riguarda le vendite nella grande distribuzione si avrebbe un aggravio della spesa dei consumatori fra i 6 e 700 milioni di euro complessivamente. Quindi comunque un importo significativo, anche perché non dimentichiamo che questa è diciamo l'ultima goccia degli aumenti che devono sopportare le famiglie. Infatti, perché... guardi, la interrompo subito perché sto tenendo sotto osservazione i commenti che stanno arrivando dagli ascoltatori al 349-238-6666. Io sono molto contenta che in tanti dicano, contrariamente all'artigiano che ha commentato per primo, che sia un falso problema quello del quale parliamo, perché tutto sommato è un aumento assolutamente sopportabile per molte tasche. Io non sono completamente d'accordo con questa visione così light, perché magari per tutti 10 euro al mese possono essere anche sopportabili, ma in realtà per un pensionato che ha 500 o poco più euro mensili di pensione, appunto, sociale, non credo che possa in realtà sopportare anche un aumento di 10 euro, che magari era quella quota destinata a Crippa, alla bolletta della luce. Certo, anche perché, come stavo accennando prima, bisogna fare anche qualche riflessione su cosa è avvenuto negli ultimi mesi, perché una famiglia media in questo momento sta ancora pagando quelli che sono, per esempio, gli effetti degli aumenti delle materie prime alimentari che ci sono state l'anno scorso, che quindi si sono riflettute sui prezzi quest'anno, sta pagando la benzina il 20% in più rispetto all'anno scorso, e presto arriverà a subire anche gli effetti della prima parte della manovra economica varata dal governo, quella che è stata approvata a metà luglio, che a regime potrà arrivare ad avere un peso sui bilanci di una singola famiglia di diverse centinaia di euro. Quindi l'aumento dell'IVA credo che non vada visto nei suoi pericoli inflazionistici e quindi di aumento dei costi delle famiglie, non vada visto da solo, ma va purtroppo sommato a quanto già sta gravando sulle spalle delle famiglie. Io mi sto divertendo tantissimo con i vostri messaggi, perché non pensavo davvero di dover dare la declinazione divertente alla trasmissione sull'IVA di questa mattina. Mai avrei pensato a questa evoluzione. Saluto con affetto Beppe, che ci ha fatto morire dalle risate con il suo commento sul suo fornaio, che dice: non ha mai diminuito il prezzo dopo la fiammata delle materie prime. Certo, quando il prezzo delle materie prime agricole è aumentato fortemente, lui si è adeguato al rialzo, dopodiché quando la fiammata si è ridimensionata lui ha mantenuto quei prezzi. Già parla di IVA, quindi scaricherà sui suoi clienti questo aumento nell'immediato, e ti raccomando gli scontrini, dice Beppe. E lo so che questo è populismo, Beppe, non è vero invece, perché è vero, ma lui continua e dopo un po' ci scrive: e non mi dica di cambiare fornaio, perché anche quello accanto è uguale. Beppe, ci saluti tutti i suoi fornai. E però, a parte questo, ci sono tanti altri commenti anche su chi ci chiede quanto inciderà l'aumento dell'IVA sulle utenze domestiche, la tazzina del caffè, il televisore, tanti commenti su questo. Vado al professor Giuseppe Di Taranto, Università Luis Guido Carli di Roma, consulente dell'Unione Nazionale Consumatori, perché anche voi come Unione Consumatori aderite a Casper, questo comitato appunto formato da alcune delle principali associazioni dei consumatori italiane. Sono stati stimati gli aumenti che potranno essere determinati da questo aumento dell'aliquota IVA appunto applicata a molti beni e servizi. Professor Di Taranto, ma lei sono anni che studia la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Andrà peggiorando a suo avviso la situazione, visto che peraltro anche il mercato del lavoro in questo momento non sta aiutando? Purtroppo penso di sì. Credo che questi dati molto allarmanti siano soltanto gli ultimi di una lunga serie. Mi permetta qui di ricordare alcuni studi che erano stati fatti dal 2004 al 2008. fatto e che già dimostravano come il potere d'acquisto era in caduta libera. L'IRES, faccio i nomi degli istituti per i nostri telespettatori se volessero approfondire, aveva già detto, le parlo del 2008, che dal 2002 al 2007 il potere d'acquisto dei percettori di reddito fisso era caduto già di ben 1.900 euro. L'Eurispes nel 2008 insisteva sui livelli più alti di inflazione rispetto a quelli ufficiali e in questo ultimo rapporto, appunto relativo al 2008, mostrò che dal 2001 al 2005 si era registrata un'inflazione progressiva del 23%. Potrei continuare su questi dati, però mi permetta di fare un'osservazione, ma i dati ufficiali dell'Istat non mi pare andassero in questa direzione. Oggi invece a me pare che i dati che stanno venendo fuori da tutte queste indagini attuali, quindi successive al 2007-2008, e quello soprattutto che citava lei del Casper, dimostrano che questi dati precedenti alla crisi erano dal lato della ragione. Ora, l'aumento dell'IVA, quindi, anche se non comporta di per sé un'enorme diminuzione del potere d'acquisto, però si va a accumulare alla diminuzione che c'è stata già dal 2002. E ad accumulare, sì, a tutti gli altri interventi che Crippa prima ci ricordava, ma dei quali leggiamo tutti i giorni, certo. Sono perfettamente d'accordo, anche perché tra l'altro c'è il problema degli arrotondamenti del prezzo, che per molte aziende, ma anche per molti commercianti, richiederà in qualche maniera proprio nuove politiche di pricing. Quindi bisognerà vedere come si affronterà questa nuova situazione, ma certamente, di questo sono abbastanza certo anche dall'esperienza dal 2001 ad oggi, la vittima predestinata sarà sempre il consumatore. Eccoci qua. Allora, detto questo, poi chiaramente possiamo dipingere questo quadro nella maniera più fosca possibile. Non abbiamo molte alternative di intervento, perché se non è l'IVA sarebbe stato qualcos'altro. Bisogna far cassa in questo momento. Non voglio né sponsorizzare l'intervento del governo né denigrarlo completamente. Per fortuna non sono il ministro dell'economia, credo che nessuno in questo momento voglia fare questo sgraditissimo lavoro. Di fatto comunque questo aumento c'è stato e di impatto dobbiamo parlare, e dobbiamo fare appunto una previsione su quelle che potrebbero essere le conseguenze appunto sulle nostre tasche. Sentirei, prima di andare a Confesercenti, a Mauro Bussoni, un'osservazione per Confesercenti, Bussoni, proprio per lei, da parte di un ascoltatore, così apriamo anche un'altra parentesi su la sensazione che molti hanno relativamente al fatto che ci sarà chi si potrà approfittare nell'immediato appunto di questa nuova situazione, quindi l'aumento dell'IVA e un aumento dei prezzi di determinati beni che potrà essere deciso appunto proprio perché si prende come scusa questo aumento e lo si applica immediatamente sui prezzi appunto al consumatore finale. Floriano da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah. Lei mi ha anticipato perfettamente. Infatti, come avevo visto la domanda che voleva fare. Esattamente questo. Io volevo chiedere al presidente della Confesercenti se lui oppure ed anche i suoi equipollenti possono fare una sorta di controllo sugli loro associati, perché io mi chiedo, ad esempio, si parlava prima di soglia psicologica, se ricadrà sul consumatore dal 99 al 90 un bene non andrà a 190, sono convinto che andrà a 109,90 o a 104,90, oppure la pizza che ora costa euro non penso andrà a 8,08, andrà a 9 euro. Ecco, volevo sapere, è possibile un controllo del genere? Perché chi dice, se fosse solo per l'1%, io penso che comunque sia, bene o male, potremmo comunque sopportare questa cosa, ma io temo che ci sarà un aggravio ben più maggiore portato dai furbetti, perché i furbetti ci sono. Qualche volta, Floriano, i furbetti vanno anche colpiti attraverso scelte individuali da parte del consumatore differenti. Se notiamo che un commerciante fa il furbetto approfittando dell'aumento dell'IVA, si va da un altro commerciante che magari, visto che abbiamo l'opportunità di scegliere, visto che viviamo in un mercato molto ricco. Detto questo, questa è la considerazione frequente che facciamo. Se poi tutti se ne approfittano, qua è un altro discorso. Bussoni, vi siete siete interrogati anche su questa eventualità che a quanto pare spaventa molto i consumatori, come ha sentito? Ah, io credo che i consumatori debbano essere spaventati da altro, anzitutto perché il settore della distribuzione commerciale è l'unico settore in Italia che ha avuto in questi anni processi di liberalizzazione di regulation molto spinti, quindi il consumatore ha possibilità ampie di confrontare, non tutti i fornai si comportano come i fornai ai quali faceva riferimento il radioascoltatore di prima. Il problema vero è che l'aumento dell'1% per quanto riguarda l'IVA si somma a tutta un'altra serie di situazioni con le quali i consumatori avranno a che fare. Noi abbiamo stimato che il punto percentuale potrebbe incidere sulle tasche sulle famiglie dei consumatori per circa 165 euro, sia 165, 150 o 120, credo che poco cambi. Il problema su quali beni, tra l'altro poi Bussoni ci dice anche su quali beni avete intercettato l'aumento immediato e su quali no. Su questo intanto è una valutazione di natura teorica, previsionale, certo. Si spalma ovviamente su tutto il 20%. Se così fosse ci sarebbe un onere sulle famiglie di questa misura. Ovviamente le famiglie che hanno meno disponibilità si troverebbero ad avere 165 euro da spendere in più, quindi o riducono i consumi o si indebitano o fanno fronte ai risparmi che hanno. O risparmiano meno, parliamo, certo. Parliamo sempre ovviamente di previsioni, in realtà ci sarà all'interno del mercato che le aziende avranno atteggiamenti diversi, pur di non perdere il consumatore, il cliente, la fidelizzazione, ci sarà chi, e se lo potrà permettere, assorbirà comunque l'aumento all'interno della propria politica di pricing. A noi quello che preoccupa maggiormente sono gli aspetti collaterali, nel senso che la manovra è una manovra che prevede per circa il 70% nuove entrate che deriveranno molto probabilmente da aumenti che ci saranno su tutti i servizi di natura locale per i tagli che sono stati fatti nei confronti dei comuni e nei confronti delle regioni. E questi li pagheranno ovviamente, li pagheremo tutti noi cittadini, e incideranno questi ovviamente anche sulla minore capacità di acquisto, tant'è che abbiamo fatto delle previsioni rispetto a quello che sarà il possibile raggiungimento della tassazione, che anche secondo stime di Banca Italia potrebbe raggiungere comunque i livelli più alti degli ultimi anni, quindi le preoccupazioni sono preoccupazioni che sono legate a tutto il sistema comunque dell'intervento e della manovra. Ci saranno anche degli interventi sulle detrazioni di natura fiscale e quindi anche questi sì. Bussoni, io però Salvadanaio non faccio l'esame della manovra stamattina, altrimenti poi ci servirebbe una trasmissione di 3 ore, limitiamoci all'impatto dell'aumento dell'IVA ordinaria al 21% nelle abitudini di consumo delle famiglie italiane, così tanto per capire cosa succederà nei prossimi mesi. È un tema importante capire quando entrerà a regime tutta questa novità, perché poi gli effetti saranno inevitabilmente graduali. Se la manovra viene approvata in tempi ridotti, la misura va pubblicata appunto sulla Gazzetta Ufficiale, per l'IVA dal giorno dopo si potrebbe avere già la applicazione immediata. Detto questo, non è così, perché chiaramente per un professionista che fa fattura l'IVA è nuova e quindi deve applicare, immagino, il 21% da subito. Forse per la grande distribuzione Crippa non è così immediata l'applicazione delle nuove aliquote. Anche in questo caso saranno le singole aziende a dover decidere come fare, perché i problemi di ridisegno di tutta la politica di prezzo naturalmente sono rilevanti. Abbiamo accennato prima al discorso delle soglie psicologiche. Io sono convinto che nel momento in cui ogni azienda andrà a fare questo tipo di analisi, quindi dovrà confrontarsi con questi 999 o 99, deciderà sostanzialmente di lasciarli così come sono, perché diverso è ragionare con un televisore che costa 999 come soglia psicologica rispetto a, per tornare al ragionamento che faceva il radioascoltatore di prima, averlo a 100,109. L'impatto è molto diverso sul consumatore, quindi questo è un primo aspetto che dovranno, su quale dovranno riflettere. Poi ci sono aziende che hanno già in qualche modo definito i propri prezzi attraverso cataloghi, attraverso pubblicazioni che hanno dato al consumatore, che quindi sono in grande difficoltà, perché a questo punto dovranno anche loro decidere come comportarsi, nel senso se tenersi questo 1% o se trovare un sistema fantasioso per comunicare al consumatore che rispetto a quello che ha visto sul catalogo il prezzo potrebbe essere diverso. Ecco, le società, i centri della grande distribuzione, non diciamo il nome, ma prima microfoni spenti parlavamo di un marchio molto conosciuto che ha già distribuito fra i suoi clienti appunto il catalogo con gli articoli in vendita da quest'anno, mettiamola così, per la stagione autunno-inverno, i prezzi già fissati lì. Come si deve comportare un'azienda che magari non è in grado di assorbire questo aumento percentuale dell'IVA? Deve ristampare tutti i cataloghi? Beh, le scelte naturalmente sono diverse. Potrebbe ristampare il catalogo, potrebbe trovare un sistema di comunicazione che rispetto al prezzo del catalogo, il prezzo praticato in realtà sul punto di vendita è diverso, però sono tutte scelte che vanno a toccare la relazione di fiducia che c'è tra l'azienda e il consumatore, quindi sono scelte molto complicate, perché la definizione del sistema di prezzo poi è qualcosa di più rispetto a definire semplicemente quanto deve essere pagato un bene, ma stabilisce un rapporto di fiducia che esiste tra la singola insegna e i consumatori che la frequentano abitualmente. Quindi diciamo le scelte sono molto importanti e sono sicuramente di impatto strategico, insomma. Allora, adesso dobbiamo andare già di nuovo alla prossima pausa, i suggerimenti per chi è in viaggio, ma ha qualche altro messaggio che devo leggere. Il mio barbiere ha già detto che dovrà aumentare ovviamente per l'IVA, ci racconta Roberto. Piccolo particolare, non ha mai fatto una ricevuta, nessuna fattura, molto bene. Un altro ascoltatore invece, questo ci aveva veramente fatto un po' innervosire, perché ci ha scritto, adesso purtroppo non lo ritrovo, ci dice: ma insomma, io continuerò a non emettere nessuna fattura, punto artigiano. Non si firma naturalmente, mi piacerebbe tanto dare il suo numero di telefono alla Guardia di Finanza, guardi, per farsi fare una telefonata per controllare il suo operato che non ci è piaciuto per niente. Grazie anche a persone come lei, naturalmente, che oggi paghiamo tutti quanti questa situazione. Nessun problema, mi basterà aumentare il nero per compensare l'IVA, ci scrive Antonio. Vabbè, insomma, c'è un grande esercizio di fantasia fiscale questa mattina da parte dei nostri ascoltatori. Sentiamo un paio di telefonate e poi un altro giro con il professor di Taranto e con Mauro Bussoni di Confesercenti. Concetta da Roma, buongiorno. Buongiorno, io vorrei semplicemente sapere chi decide l'aumento di un singolo prodotto, cioè è il negoziante o la cosa parte dalla casa produttrice? Cioè io per esempio uno yogurt che fino a poco fa compravo a 3,75 euro, l'ho trovato da un giorno all'altro, e non adesso come ho fatto l'IVA, io parlo già da vari mesi, l'ho trovato da un giorno all'altro a 4,05 euro. Però ecco appunto, cioè non so, per esempio la borsa shopping bio da un giorno all'altro da 5 centesimi a 10 centesimi. E ripeto, non adesso, io tremo adesso all'idea di certo, Concetta. Allora, Concetta, per ogni bene c'è una filiera, si va dal produttore al consumatore, la verdura va coltivata, va raccolta, va ripulita, va trasportata ai supermercati, va distribuita sui banconi del supermercato. Devo ritornare a Stefano Crippa, gli faccio fare un po' il suo lavoro per spiegarci come si formano i prezzi. Qua abbiamo anche l'altro grosso problema di una filiera tanto lunga nel nostro paese, spesso bastonata da molti osservatori. Però facciamo il caso dello yogurt, come ci ha chiesto Concetta. Com'è possibile che da un giorno all'altro abbia trovato questo aumento di prezzo da 3,75 euro ad oltre 4 euro? Può averlo stabilito il produttore iniziale o il distributore, il commerciante? Adesso non c'entra l'IVA qua ancora, no, meno certo, ecco. Certo. A raccontare come funzionano le filiere adesso sarebbe complicato e, come ha detto prima, richiederebbe una trasmissione apposta. Però può essere che in un caso lo decida il distributore, così come in un caso lo decida il produttore, per cui il distributore può decidere di assorbire questo aumento della produzione. In termini molto semplici, ogni aumento di prezzo che viene registrato dai consumatori sul punto vendita è determinato dall'aumento del prezzo al quale il distributore compra il prodotto da chi lo produce. Quindi l'aumento dello yogurt che ha registrato la nostra amica dipende dal fatto che il distributore ha dovuto comprare lo yogurt da chi produce lo yogurt a un prezzo più alto rispetto a prima. E quindi ha dovuto, comparandolo a un prezzo più alto, riportare questo aumento sui consumatori. Questo potrebbe anche essere che sia uno yogurt che arriva da molto lontano, dall'Europa, per cui ci sono stati solo gli aumenti dei prezzi dei carburanti che si sono dovuti trasferire sul prezzo finale. Non lo so, l'economia è molto variegata, per cui le cause che possono aver determinato questo aumento sono molte. Sì, certamente sono molte, però se dovessimo fare appunto una priorità, sicuramente ogni variazione di prezzo ha a monte, per quello che riguarda il distributore, l'aumento del prezzo al quale lui ha dovuto comprare il prodotto da chi lo fa. Allora, questo meriterebbe una puntata a parte. Sentirei Lorenzo da Brescia per poi andare al professore di Taranto. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Facevo una riflessione, no? Io premetto che faccio l'autotrasportatore, quindi seguendo le ditte così, io dico 40%, ma secondo me è di più, di gente precaria. Dunque, quella gente precaria qua non ha neanche il potere di dire mi faccio un prestito perché non glielo fanno, quindi c'è una stagnatura tremenda. Gli altri che hanno contratto indeterminato arrivano a fine mese, io voglio sapere come andremo a finire, se ci saranno altre bastonate. Poi i contratti, che non li dico settimana per settimana, uno schifo tremendo. Quindi insomma, Lorenzo, la sua non è un'osservazione sull'IVA, è una considerazione un po' più generale sullo stato di difficoltà che vive lei e molti colleghi, e probabilmente questa misura viene un po' percepita ancora come un piovere sul bagnato, non so quale altro proverbio poter utilizzare per capire. Lorenzo, la ringrazio, vorrei andare al concreto ancora della misura, l'aumento dell'IVA ordinaria dal 20 al 21%, tra l'altro un settore che era già stato ritoccato un paio di volte, soprattutto in altri momenti molto difficili per la nostra economia, Ventodini del 95, Prodi del 97, e questa è la nuova razionalizzazione appunto di queste aliquote. Carmelo da Milano, buongiorno, rapidissimo, grazie. Buongiorno, buongiorno. Senta, io ho fatto un contratto settimana scorsa per un'auto nuova, arriva a metà ottobre e volevo capire che IVA mi applicavano. Quindi i regimi transitori. Carmelo, questa è una gran bella domanda, ce ne occuperemo magari quando la misura sarà in gazzetta ufficiale. Professor di Taranto, vuole aiutarci a fare un esercizio di fantasia per Carmelo, per capire, visto che ha stipulato il contratto ora, probabilmente rimarrà quest'IVA qua o varrà secondo lei il principio di cassa? Ma come giustamente affermava lei, bisognerà vedere poi l'attuazione pratica. In teoria non dovrebbe essere soggetto all'IVA perché non è ancora legge, però non dimentichiamo che c'è il decreto legge che vale come legge, quindi infatti sarà meglio aspettare poi le norme attuative e i regolamenti attuativi una volta che il tutto sarà passato anche all'approvazione di Montecitorio. Se mi consente, sentivo prima parlare l'autotrasportatore e c'è una voce che incide moltissimo, pensi, è quella che più incide in questo aumento dell'1% per le famiglie, ed è proprio la voce dei trasporti. Sì. Pensi che incide per 83 euro per una famiglia operaia, per circa 100 per una famiglia di impiegati e per oltre 120 per imprenditori liberi professionisti. Ora, questo mi sembra un dato importante, perché qui parliamo della mobilità, ma soprattutto della mobilità per andare al lavoro, e quindi un aumento per una famiglia operaia di 83 euro sicuramente non è poco e incide altrettanto non poco sul bilancio. Insomma, un quadro così che non ci piace molto. Stavo intanto ancora leggendo le mail degli ascoltatori, che ovviamente sono molto irritati dalla prima mail che ho letto del signore che ha detto, in barba ai nuovi provvedimenti, io continuerò ad evadere senza alcun problema. Il medico dove mi reco per terapia prende 80 euro a seduta, ci racconta Sandra. Lavora tutta la settimana, a volte anche la domenica. Ho fatto un calcolo che tutto questo le fa intascare più di 15.000 euro al mese, ma quando le chiedo la ricevuta storce il naso, mi fa aspettare mesi. L'ultima ricevuta che mi ha fatto era di 800 euro, ha preteso che la pagassi anche 16 euro di IVA, ma dove sta la finanza? Grazie Sandra, grazie per avercelo raccontato. Faccia una telefonata adesso io non me lo ricordo al volo, ma c'è un numero di telefono al quale anche un mio amico mi ha raccontato qualche giorno fa, ha fatto riferimento per segnalare l'operato di un ristoratore che ovviamente mandava via i clienti senza il benché minimo documento. Detto questo, magari sul tema dei professionisti e l'IVA ritorneremo in un'altra puntata. Oggi ci siamo dedicati più in generale al tema dei consumi, del carrello della spesa. Bussoni, devo concedere anche a lei, se vuole, una chiusura in 5 secondi. Una riflessione finale da parte di Confesercenti. La riflessione finale è che con questa manovra si rischia comunque di avere un'ulteriore depressione per quanto riguarda i consumi. Se non riprendono i consumi interni, difficilmente ci sarà una ripresa dell'economia. Quindi auspichiamo che comunque il governo provveda a fare delle misure di sostegno, garantire maggiore reddito a chi lavora e maggiore tassazione alle imprese, e che tutte le imprese paghino quello che devono pagare. Grazie a Mauro Bussoni di Confesercenti, a Giuseppe di Taranto, docente universitario alla Luis Guido Carli di Roma Consulente dell'Unione Consumatori, Stefano Crippa di Feder Distribuzione. Ritorneremo su questo argomento quando vedremo il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi ne vedremo anche poi concretamente l'applicazione, quella transitoria fra chi ha già fatto contratti e chi entrerà magari materialmente in possesso di determinati beni solo più avanti. Noi intanto con Salva Danaio ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti. Salva Danaio.